versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori, questo venerdì 14 febbraio, San Valentino! Ma questo lo avete già capito dai programmi che vengono prima. A me tocca semplicemente fare gli auguri a tutti tra voi, coloro che sono innamorati e anche a coloro che non lo sono, ma magari oggi avranno una buona occasione. E salutare mia moglie, ovviamente, anche se non mi ascolta. Non mi ascolta in trasmissione, non nella vita, eh. Cioè, poi avete subito equivocato, vedo che subito ridono dall'altra parte del vetro. Non è vero, se no mi massacra. La volta buona che mi sta ascoltando. Detto tutto questo, allora oggi di che cosa parliamo? Oggi entriamo nel merito di quello che bisogna mettere sul tavolo di questo nuovo governo Renzi. Lo sapete che alle 17 cominciano le consultazioni del capo dello Stato, consultazioni rapidissime, finiscono domani mattina. Per quello che mi riguarda, non so come la pensate voi, io sarei per abolire questo rito per cui i corazzieri, la sala, quelli che entrano, quelli che escono. Si potrebbe fare molto rapidamente per telefono o per Skype. Ciascuno sentito dal Quirinale una telefonata dice con un bel comunicato che cosa gli ha detto e poi alla fine di tutto il presidente rende noto con un comunicato che cosa ha deciso. Mi sembra che questi riti da anni 40-50 andrebbero anche essi superati. Detto tutto questo, perché, dicevo, nella trasmissione di oggi ci occupiamo di ciò che va messo prioritariamente sul tavolo del nuovo governo che nascerà all'inizio della settimana prossima? Perché non è un caso, in maniera crescente, che le imprese di ogni tipo nel nostro paese abbiano nel tempo, anno dopo anno, punti di prodotto dopo punti di prodotto, punti di reddito dopo punti di reddito persi, accresciuto l'intensità delle loro proteste. E oggi ci occupiamo proprio di una protesta che avviene la settimana prossima. Non c'è solo quella di Confindustria, di questa sentirete parlare da Barisoni dopo di me con presidente dell'Unione Industriale, che hanno animato questa protesta di cui avete visto, la protesta nuova digitale di Confindustria. Sentirete il presidente dell'Unione Industriale di Torino da Barisoni dopo di me. Ma martedì c'è una giornata nazionale di protesta nelle piazze, quindi gli imprenditori scendono nelle piazze, e come, di tutte le associazioni imprenditoriali del mondo del commercio e dell'artigianato, cioè di Rete Imprese Italia. E quindi oggi, se voi siete artigiani, commercianti, prendete il telefono, chiamateci all'800240024, diteci cosa pensate della protesta di martedì e diteci di cosa pensate, di come la vedete, di questa condizione del paese. Oggi il primo giorno della fine dell'epoca letta, ci sono delle coincidenze, no? Cioè, coincidenze casuali, però ci sono, perché ufficialmente con il dato dell'ultimo trimestre del 2013 l'Italia è formalmente uscita dalla recessione, perché sono usciti i dati del quarto trimestre del 2013 di tutta l'Unione Europea. Pensate che in testa nel congiunturale, cioè trimestre su trimestre come crescita, anzi perdonatemi, nel tendenziale c'è in testa il Portogallo con più 0,5%, poi c'è la Germania più 0,4%, poi c'è la Spagna più 0,3%, sorpresa anche la Francia, che tutti davano col segno meno, invece più 0,3%, quindi c'è Olanda, Parigi che festeggia, e l'Italia più 0,1%. Allora questo più 0,1% sul trimestre precedente, con una perdita comunque di tutto l'anno di 1,9% del PIL italiano, fa finire tecnicamente la recessione. Ma il problema a questo punto è se ci mettiamo 5, 10 oppure 15 anni per recuperare il prodotto, il reddito pro capite perso, i punti di produzione, l'occupazione persa. Ecco, questo è il vero dilemma del paese. E allora ecco perché le imprese, secondo me, fanno non bene ma benissimo a protestare. E della giornata di protesta di martedì 18 di Rete Imprese Italia, artigiani e commercianti di tutte le associazioni che sono insieme in questi anni, le rappresentanze si sono unite in Rete Imprese Italia, ne parliamo con il responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio, che con noi, ringrazio, Mariano Bella. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Posso chiedere innanzitutto, siccome la conosco e so che lei appunto di mestiere interpreta numeri, come legge questi dati dell'ultimo trimestre 2013, l'Italia in fondo alla fila rispetto agli altri, come tasso, per così dire, di potenziale di questo segno più, come si può sviluppare nei trimestri successivi secondo lei? Dunque, bisogna essere franchi, il dato è un dato brutto, perché rispetto alle attese dei principali istituti di ricerca, che erano attese che andavano tra 0,3 e 0,4, cioè per chiudere a meno 1,8, meno 1,7, il più 0,1, che tra l'altro è un dato provvisorio e quindi potrebbe essere soggetto a revisione, è sostanzialmente niente. Io mi permetto di ricordare che quando uscimmo dalla precedente recessione, quella che finì nell'ultimo quarto del 2009, siamo usciti con il primo trimestre del 2010 a più 0,9. Ora, al di là dei numeri, questo vuol dire che nell'ultimo trimestre del 2013 non è sostanzialmente successo niente di buono. Esattamente. Questo è un fatto soggettivo. E la protesta che proporremo il 18 vuole essere un momento di anche di proposta. Cioè, noi tentiamo di dare un senso alla disperazione, al disagio degli imprenditori, delle loro famiglie e dei loro dipendenti, e cerchiamo di dare forma a questa protesta, una forma che sia ordinata, una forma che sia civile, ancorché vibrante. E se non si dà una forma civile alla protesta, si rischia la demagogia, si rischia la confusione, si rischia anche diciamo di mettere in discussione dei principi cardine che invece non vanno messi in discussione. Tuttavia c'è poco da fare, fisco, credito, lavoro e burocrazia, credo che il prossimo presidente Renzi debba partire da questi quattro pilastri e dare delle risposte che non siano risposte che rimangono solo sulla carta come i tanti documenti che vengono fatti quotidianamente dai governi, ma che si traducano poi in qualche beneficio per famiglie e imprese. Se facessimo un resumé di che cosa ha significato per il settore del commercio in Italia questi anni di crisi fino a questo momento, fino a che abbiamo i dati, lo ricordiamo un secondo ai nostri ascoltatori? Sì, forniamo i dati, diciamo, da scrivania, da computer, da statistiche ufficiali. Nel periodo 2007-2013 abbiamo perso come reddito disponibile il 13,2% a testa in termini reali. Il risultato è che il commercio si è fortemente contratto, ma si è contratto anche l'artigianato, il settore del turismo, che tutto sommato ha retto meglio degli altri, e poi il complesso del settore dei servizi. La cosa grave è che noi nel 2011 avevamo già perso, per esempio, in termini di consumi il 3%. Quando il professor Monti ha detto lavoriamo sull'austerità pure con nobili principi, non ha tenuto conto che la sua ricetta, diciamo da libro giusta, veniva applicata a un soggetto, un malato che era già fortemente debilitato. Il risultato è che poi nel biennio 2012-2013 a testa abbiamo perso un ulteriore 7% dei consumi, e guardi che al ritmo dell'ultimo trimestre 2013 ci vorranno non 5 anni o 10 anni, ma forse ce ne vorranno 20 per ritornare ai livelli pre-crisi, ai livelli del 2007. Noi speriamo che questo nuovo governo, con questi nuovi interpreti, possa tradurre in pratica un po' di buoni principi e rendere il fisco più accettabile, la burocrazia amica e non contraria alle imprese e alle famiglie, e quindi poi dare un po' di respiro in termini di credito e in ultimo semplificare le norme che riguardano il mercato del lavoro in maniera tale da accorciare i tempi per ritornare almeno ai livelli pre-crisi. Ora, due precisazioni, ci sono ascoltatori che dicono: ma come, vuoi abolire anche le consultazioni? No, guardate che la mia era una battuta un po' ironica, nel senso che io sono perché le crisi avvengano in Parlamento, quindi mi pare che ormai in questa foga di fare in fretta, tanto vale, facciamole anche telefoniche le consultazioni, perché questo è quindi, attenzione a distinguere, talvolta faccio un'ironia un po' più leggera del solito, ma era una cosa ironica. Seconda cosa, sì, questa è la radio di Confindustria, perché molti dicono: ma come, questa è la radio di Confindustria? Guardate che se pensiamo, noi da questa radio sentirete spesso ripetere come è giusto, difendiamo la manifattura e così via, però cari ascoltatori, se guardiamo il totale degli occupati nel nostro paese, sti 22,8, un po' meno di 23 milioni ufficiali di lavoratori, ricordate che tutta la sacrosanta, giusta enfasi per difendere l'industria e la manifattura, diciamo che a seconda di come la si calcola sono 5 milioni e mezzo, un po' di più di occupati, ma voi capite che il resto degli occupati, e quindi in proporzione quelli che abbiamo perso, quelli che bisogna creare, soprattutto quelli dove dovrebbe essere più facile crearli, sono gli altri, i 17 milioni dei servizi. Allora, io lavoro anche per l'industria, però i numeri dell'economia italiana ci dicono che avere colpito così in maniera massacrante la domanda interna significa colpire la stragrande maggioranza del valore aggiunto del PIL e degli occupati. Questo è il motivo per cui siamo più in ginocchio degli altri. O sbaglio, Mariano? No, no, assolutamente corretto. Tra l'altro bisogna un po' superare anche questi discorsi, qui industria sì, manifattura sì, servizi sono meno produttivi, cioè o si cresce insieme oppure non c'è assolutamente speranza. Tra l'altro si dice spesso che le nostre piccole, piccolissime imprese devono diventare più grandi, è assolutamente vero, ma non devono diventare più grandi perché lo dice il pianificatore benevolente, cioè quello che sta alla presidenza del Consiglio e ti dice dovete diventare grandi. Dobbiamo diventare grandi perché è un modo di fare efficienza, però bisogna anche ricordare che le piccolissime imprese, le piccole imprese della Germania hanno una produttività per addetto del 30% superiore alla nostra, quindi esiste almeno un posto nel mondo, in realtà ne esistono tanti, in cui le piccole imprese possono funzionare funzionare. Perché quelle italiane non funzionano? Perché ci sono i 1210 giorni per far rispettare un contratto, perché non si riesce a capire come uscire da un fallimento, perché la pubblica amministrazione non paga i debiti, perché c'è una criminalità, una microcriminalità, un abusivismo intollerabile. Allora dico questo: se la politica, le istituzioni non aggiustano le variabili di contesto in cui le nostre piccole imprese si muovono, poi possiamo lamentarci, possiamo accusarle, possiamo accusare gli imprenditori di non essere capaci, ma bisogna riconoscere che gli imprenditori italiani rispetto per esempio a quelli tedeschi hanno un fardello, hanno una situazione di contesto molto, molto negativa. Vorrei vedere i tedeschi come riuscirebbero a comportarsi e cosa performerebbero se avessero i carichi di contesto che abbiamo noi. A parità di condizioni. Allora, dopo l'informazione stradale e il minuto di interruzione, ripartiamo con Mariano Bella che risponde alla domanda. Alcuni ascoltatori chiedono, sì però i forconi vengono esattamente dal mondo che esprime Rete Impresa Italia, artigiani e commercianti. Siamo sicuri? Che ci dice il rappresentante di Rete Impresa Italia? Hanno protestato abbastanza oppure hanno lasciato l'impressione a molti del loro stesso mondo che bisognava, per così dire, essere più energici, sbattere più i pugni, bloccare di più le strade, far capire al governo che la tragicità della perdita in atto era tale che il governo non poteva far finta di niente e girarsi dall'altra parte come ha fatto. Ma la risposta tra 60 secondi, intanto strada. La versione di Oscar. Eccoci qua tornati in diretta, 16:47 e 56 secondi. Mi arrivano molti sms sul 349-238-6666. Gente che chiede, ma tu come la pensi su Renzi? Ma Renzi ce la farà? No, come la penso io? Guardate, ha poco rilievo. Le difficoltà sono estreme. Lui ha detto che non andava al governo se non passando per le urne. Il suo partito, quelli che lo accusavano al congresso che aveva appena vinto prima, ma come? Vuoi devastare il governo? Sono stati quelli che gli hanno detto vai al governo così ti levi dal partito. Insomma, ammettiamo. Il caos è altissimo e credo, per quanto un po' lo conosco, Matteo Renzi, che lui è il primo a saperlo, quindi ha bruciato dietro i ponti e le barche, non ha nessuna possibilità, o riesce o diventerà una delle meteore più fiammeggianti nell'autodistruzione della storia della politica italiana. Questo è il punto, le difficoltà sono enormi. Poteva cambiare le regole molto meglio da segretario del partito, non guida del governo, perché bisogna trattare con Berlusconi di come adesso sarà possibile farlo, visto che Berlusconi non gli farà sconti come capo del governo, se non dicendogli prendimi anche a me di nuovo nel governo, e questo, come capirete, nella base del suo partito non può farlo, non solo per quello, secondo me. Quindi è tutto dannatamente complicato. Ma non dimenticate che l'Italia non è più 0,1%, come diceva Mariano Bella, che qua c'è il sole che sta apparendo. Qua ci sono 400 miliardi anche quest'anno di titoli pubblici del signor Stato da piazzare, capite? Adesso sui mercati c'è una congiuntura per cui abbiamo lo spread basso, ma non vi illudete, perché quando poi inizieremo a vedere che la qualità degli asset bancari, bisogna mettere mano alla ripatrimonializzazione delle banche, inizierà di nuovo a differenziarsi il rischio sovrano e il rischio bancario. Io non voglio fare gufo, ma i dati sono cattivi, quelli italiani. Abbiamo di fronte a noi moltissimi anni di impegno serio e ci vogliono governi solidi, e quindi io credo che alla fine andremo a votare comunque molto prima di quanto non si chieda. Non ci credo manco morto e spero di essere smentito a un governo di 4 anni. Magari invece è il governo che cambia l'Italia. Io questo non lo posso sapere, posso solo dirvi che è difficoltosissimo. Allora, la protesta l'avete fatta abbastanza? Ci chiedono un po' di ascoltatori che probabilmente occhieggiano un po' ai forconi, Mariano. Sì. Dunque, c'è una fondamentale differenza tra le nostre organizzazioni e i forconi. I forconi, ho sentito dire che proponevano semplicemente cose del tipo devono andare tutti a casa, riferiti ai politici. Non capisco che se vanno tutti a casa chi ci governa, cioè un governo ci vuole qualcuno che lo predisponga con le regole democratiche istituzionali. La nostra è una protesta ma è anche una proposta. Noi diciamo la prossima volta che il dottor Befera dirà ci sono 8 miliardi di risorse derivanti dalla lotta all'evasione per il 2013, un secondo dopo queste vadano ad alimentare il fondo tagliatasse, esatto. E si riduca la pressione fiscale, che ne so, della prima aliquota con un decreto di 2 righe, dal 23% diventa 22,2%, certo. Quindi 8 decimi di punto, poco ma è una cosa precisa. Noi diciamo come proposta, semplifichiamo le regole sul lavoro, perché veramente i nostri imprenditori non riescono a assumere perché hanno paura del contenzioso, oltre perché non c'è domanda. Siccome qui o si fanno le cose perfettamente quando si assume una persona a qualsiasi titolo, oppure certamente qualcuno ti trova che qualcosa non va, allora uno dice preferisco non assumere, e poi arriviamo al 42% di disoccupazione giovanile, 42% che poi nelle regioni del sud diventa oltre 50%. Sì. Noi diciamo patrimonializziamo un pochino di più i consorzi fidi e che lo Stato utilizzi anche qualche azione in termini di garanzia per sostenere i consorzi fidi, per avere un po' di credito, poi eliminiamo le leggi inutili, invece sono tante, eliminiamo i regolamenti inutili e rendiamo la vita dei cittadini, non dico facile, ma almeno che lo Stato non si frapponga tra la voglia degli imprenditori di fare impresa e la produzione e il reddito. Allora, noi salutiamo e ringraziamo Mariano Bella che aveva detto che a 50 sì, aveva un impegno, grazie. Quindi grazie di essere stati qui con noi. Un saluto a tutti. Ti salutano anche molti dei nostri ascoltatori, andiamo alle telefonate. Vi racconto solo questo, oggi un amico straniero mi chiede, ma Oscar, qui c'è una cosa che non funziona, la banca mi ha detto, riceve un bonifico, questo amico straniero ma che risiede in Italia, riceve un bonifico e dice, la banca qua dice che è obbligata a stornare allo Stato il 20% del bonifico, è incredulo questo amico e mi fa, ma spiegami, devo dire alla banca anche cosa è sbagliato, dico no, guarda che io devo purtroppo spiegarti che la banca sta ottemperando a una legge che è stata votata l'anno scorso al Parlamento italiano, per cui da febbraio di quest'anno sui bonifici esteri ricevuti da cittadini, non da imprese, la banca ha l'obbligo di trattenere il 20% e girarlo allo Stato. Sapete che sto riscontrando che nessuno lo sa? E dopodiché, naturalmente, lo Stato si riserva per ciascun ricevitore di bonifici esteri di cui incassa il 20%, la banca è obbligata, poi voi potete andare dallo Stato entro fine anno a dirgli di devo dimostrare che non reddito, se no lo Stato presume che sia reddito. Quindi se voi prenotate per esempio in questo 2014, comprate libri online solo con l'opzione, poi rinunciate e vi arriva un bonifico, attenti che lo Stato vi fotte il 20%. Se volete prenotare un viaggio su un sito estero, poi non andate in viaggio e vi restituiscono i soldi, sappiatelo che lo Stato, con una legge approvata in Parlamento e di cui sto scoprendo che nessuno sa niente, lo Stato si fotte il 20%. Capite che a cosa siamo abituati in questo paese? Non c'è altro paese al mondo, tranne che nei regimi, in cui succedono cose di questo genere. Ve lo volevo dire perché volevo sapere quanti di voi ne erano informati. Andiamo rapidissimamente a un po' di telefonate, sentiamo Fabrizio da Rimini. Prego Fabrizio. Darizzone, grazie. Niente, io volevo intervenire perché martedì prossimo, io faccio parte della Confesercenti qui di zona, martedì prossimo saremo a Roma per la prima manifestazione, ci tengo a sottolinearlo, del commercio unita nelle varie categorie, sì. Per un semplice motivo, andiamo a Roma non per chissà quale velleità, noi per farci sentire, perché sono anni che si parla del commercio, si parla, poi nella realtà siamo sempre visti come ladri, come evasori, nella realtà dei fatti noi chiediamo poche regole ma chiare, che questo governo, se si andrà a fare, ci dica quello che fine dobbiamo fare, perché ci tengo a sottolineare che noi, l'Italia, la peculiarità dell'Italia, che ha più di 4 milioni di partite IVA, come tutta l'Europa messa insieme, per cui quando si parla di grande industria, si parla di tante cose, ma nella realtà il 90% della piccola industria, come sono i commerci, come sono gli artigiani, sono rappresentati da piccoli, per cui è questa la nostra voce che ci dobbiamo far sentire, basta sentire parlare di ruberie, noi vogliamo pagare le tasse, però devono essere chiare e ci vogliono dei regolamenti chiari, anche questo governo che si andrà a insediare, vogliamo sapere cosa farà, perché qui si parla, però vogliamo sapere, perché si dice bisogna fare le riforme, ma su che cosa? Questo è quello che manca da anni e voglio poi, e tolgo l'ultima parola, volevo dire il fatto che comunque è cominciata la recessione, è vero che c'erano i problemi e tutto quanto, però la recessione è cominciata dal governo Monti, perché non è stato chiaro, solo tassato, ha fatto un errore enorme per cui ha aggiunto problemi su problemi. Diciamo che lì, diciamo che la recessione è cominciata nel 2011, tecnicamente però lì si è accelerata perché la via tutto tasse e ha prodotto quello che ha prodotto. Rapidissimamente ancora Francesco da Bari, rapido. Intanto buonasera, sì. È un piacere parlare con lei, perché ma si figuri, andiamo al punto. Anche il discorso politico. L'ascoltatore precedente, costui che ha parlato adesso, mi ha proprio preceduto in tutto. È proprio quello che io sono un piccolo commerciante, no? Qua si parla soltanto la vera crisi, chi sta morendo veramente, signor Giannini? Siamo noi, non ce Fabrizio, la facciamo. Io ti devo ringraziare Francesco e sospendere, il tempo è finito. Basta stato ladro!